Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Ora, lungo il fosso che sbucava sul Mugnone, la cornetta Parigi correva a chiamare la Croce Verde delle Cure. Risalito l'argine avrebbe accorciato il cammino. «Se strada facendo trovi un legno, piglialo e torna al galoppo. Vai, galoppa tu!» gli aveva detto l'ingegnere. Doveva percorrere 500 metri e non incontrò nessuna carrozza. Tuttavia si fermò 3 volte. Subito, imboccato il passaggio che congiungeva il fosso al torrente, nella galleria aperta sotto il piano stradale per adattarvi le tubature, un groviglio di corpi bloccava l'uscita. Costì, all'oscuro, era tutto un agitarsi di braccia, gridi soffocati, insulti, bestemmie. Qualcuno chiedeva pietà e si lamentava. Non era più una rissa, era un linciaggio. Olindo, raggomitolato faccia a terra, il capo tra le mani, ingoiava polvere e sangue. Su di lui Ginocchioni, Duili, il Pomero, il Decano, un quarto, che Parigi non riuscì a vedere, lo colpivano, a turno si sarebbe detto, sulla testa, ai fianchi, si alzavano e gli davano dei calci, lo sollevavano di peso e lo lasciavano ricadere. «Ma l'ammazzate!» esclamò Parigi. «Non muore, no, è il miglior castigo che gli si potesse dare!» Nel trambusto succeduto agli spari, dopo che il tedesco era caduto, Olindo, preso dal panico, era scappato, costoro lo avevano visto e inseguito. «Come sta il tedesco?» chiese Duili. «Non sembra grave, vada a chiamare la Croce Verde. E allora vai, cosa ti sei fermata a fare?» Parigi raggiunse l'uscita, risalì l'argine e udiva ancora i lamenti di Olindo sotto i colpi dei suoi torturatori. «Oi, basta, ho 4 figlioli! Te ne ricordi ora? Carogna, sudicio, e non li posso lasciar morir di fame! E i nostri? E noi?» Fuori la galleria c'era un gran sole, era alto mattino, il Mugnone era in secca, le cicale cantavano e ricoprivano quelle voci. Parigi imboccò il ponte, correndo, e a metà incrociò il calessino dell'ingegnere giovane. Il nipote di Badolati teneva le redini, e accanto a lui, dove un'ora prima sedeva il figlio di Maddii, c'era Del Buono. Parigi lo riconobbe quando il calesse era di già passato. «Bastiano!» Si fermò a capo il ponte. Ora il calesse costeggiava la massicciata. Il suo cappello di paglia, la sua giacca nera, dal collo sbucava il solino di tante dita. Era Del Buono. Ora che lo vedeva di spalle ne fu anche più sicuro. «O te, Parigi?» lo chiamò il suo amico Renzoni. Veniva correndo dalla parte della barriera, col fiato grosso e il sudore che gli scorreva a rivoli sul viso. «Che corsa! Di quanto m'hanno distaccato? Hai visto che Metella aveva ragione? E mio nonno e Lippi e Corsiere e Duili, bisogna rimettergli l'onore a questi vecchi, ne sanno più di noi, andiamo! Vieni tu con me, il tedesco è ferito!» Correndo insieme, affannati, si partecipavano alle notizie e agli ultimi avvenimenti di cui erano stati spettatori. Cose e fatti, gli sembrava, che la vita non gli avrebbe più riservato uguali. «Negli altri cantieri è andata su per giù come da noi. Tu eri in giro. Non sai che da noi hanno sparato? Mi ci sono ritrovato al cantiere Maddii. Lì a sparare sono stati soldati, ma anche da noi. Ma in aria! A noi ci hanno sparato addosso, siamo vivi per miracolo. E intanto, senza che sui cantieri si sapesse, a Firenze c'era lo sciopero generale per via della chiusura della camera del lavoro. Siamo stati noi a dar fuoco, e mentre divampava sarà all'oscuro. Il tedesco è ferito, e al Tinai qualcuno gli ha gonfiato il viso. In nottata è arrivato Pescetti da Roma. Lui è una rappresentanza di quelli del Pignone. Sono stati in Palazzo Riccardi di primo mattino. Roma ha chiamato al telefono il prefetto. Sembra ci fosse Giolitti dall'altro capo del filo. Fatto sta che Del Buono l'hanno scarcerato su 2 piedi. Ora va in giro da un cantiere all'altro per far accettare le proposte dei padroni. Vogliono venire agli accordi entro stamani. Parigi si fermò. Erano a pochi passi dalla meta. Dovette chinarsi ad allacciare una scarpa che altrimenti gli usciva dal piede. «Che accordi? Non so di preciso. Certo non ci daranno quanto si è chiesto dal principio, ma quasi, o almeno qualcosa!» E di lì a poco, ora correndo dietro la lettiga e restando distaccati dai 4 militi che la spingevano, più freschi e infiato di loro, «Il tedesco dove l'hanno colpito? Al petto! Come un fratello bandiera! Ti sembra di poterci scherzare? Ma se è leggero! Non lo sai? Non te l'ho detto? È arrivato anche quello di Torino, coi soldi della sottoscrizione. Ora sono tutti alla camera del lavoro. Ha portato su le 3.000 lire. Allora stasera è come se si discutesse. Si mangia, si fuma. C'entrasse di poter andare in via dell'Amorino», disse Renzoni piccolo. «La tua bambinaia? Che ce l'hai a fare? Quella è una cosa seria. Anzi, mi aspetta a mezzogiorno sotto la torre della Zecca. Saranno di già le 11 passate, non ci potrai andare. No, no, non ne posso fare a meno. Oltretutto mi porta da mangiare. Vieni di qua, scendiamo per l'argine, si fa più presto, così si arriva quando la lettiga.» Dentro la galleria trovarono Olindo, solo, che piangeva, lui uomo di 30 anni come un bambino. Il sangue gli colava dai labbri spaccati e da uno zigomo. Codesto sangue e le lacrime, la barba lunga, la polvere che gli impiastricciava il viso, il suo atteggiamento e il modo di lamentarsi, gli conferivano un'aria di can frustrato e d'ecce homo, che un po' faceva compassione e un po' ti muoveva al riso. «Otinai», gli disse il piccolo Renzoni, «siete cascato male!» Lo aiutarono a mettersi in piedi e lo persuasero a seguirli, dal momento che lo sciopero era finito per tutti, e bastava non conservare rancore perché il passato fosse morto e seppellito. «Via, Olindo, non vedete là fuori che bel sole!» Il tedesco era ferito leggero, sembrava, e a Santino, al Pomero, a Duili, gli bastò farsi medicare al pronto soccorso in farmacia. Santino riapparve con la testa fasciata, lui davvero un inobizio, se non un fratello bandiera. Ed era arrivato Leopoldo, scarcerato come del buono, e subito portatosi sul lavoro. La truppa e gli agenti, di lì a un'ora, vennero ritirati. Abbassarono le armi soltanto 200 metri lontano dal cantiere. Il sole batteva a picco. E pareva non fosse successo nulla di nulla. Ora che Bastiano stabiliva nuovi patti anche con l'ingegnere, come aveva fatto con Taiuti, con Fiaschi, con Madii, con Massetani. Tornare sui ponti, subito, alle una, piuttosto che domattina, significava riguadagnare, dopo tanto riposo, qualche ora. Dal forte di Belvedere, il cannone annunciò mezzogiorno. I lavoratori del cantiere Badolati erano tutti attorno a Del Buono, che risaliva sul calessino, mentre l'ingegnere gli stringeva la mano. Uno di quegli avvenimenti che entrano nella storia, e non ci si fa caso quando accadono sotto i nostri occhi. È sempre così. L'indomani se ne comprende il significato leggendo i giornali, o lo si impara decenni dopo, sui libri. Sono le date delle vittorie. Passerà mezzo secolo, saremo morti e seppelliti. Nel frattempo le cose avranno fatto magari un passo indietro, ma quella data resta. È una lunga rina che tiene anche se batte il terremoto. Come la cacciata del Granduca. Siamo stati forse meglio una volta entrato Vittorio? Lo stesso, il 27 aprile del 1859, il decano aveva 20 anni, se ne poteva ricordare, fu un gran giorno. Che giorno, figlioli! Egli si trovava su un ponte, dalle parti del Gelsomino. La sera, tornando a casa, seppe che Canapone era fuggito. Come il 20 settembre, quando si prese Roma al Papa, il medesimo per il quale si era cantato «Sceso è dal cielo un angelo che nono Pio si nova». I fiorentini cosa ci avevano guadagnato? Trasferitasi la capitale, era succeduto il decennio della carestia. Eppure, proprio quel 20 settembre, l'Italia era diventata una. E la notte di San Silvestro del 900, 3 anni prima, si trovò l'alba per le strade e nelle osterie. Si buttarono dalle finestre i cenci vecchi e le brocche, che in altra fine d'anno si sarebbero portata allo stagnino. Dappertutto si ballava. I ragazzi e i ricchi s'eran vestiti in maschera come di carnevale. Ci furono le luminarie e i fuochi artificiali. E l'indomani seguì un capodanno qualunque. Chi aveva bevuto più del normale si svegliò con la testa pesante e il bruciore allo stomaco. Ci si accorse che faceva un gran freddo e che c'era l'umido alle pareti. Ma era stata ugualmente una notte che, in bene o in male, soltanto i figli dei nipoti avrebbero potuto rivivere. 100 anni avanti, dissero i giornali, c'era Napoleone. Marx aveva da nascere e la locomotiva era ancora da inventare. Come dire che tra un secolo il mondo sarebbe socialista e tutti gli uomini potrebbero volare. Ecco, oggi, a Firenze, per la prima volta, un capo dei sindacati era entrato in un luogo di lavoro col benestare dei padroni. Si era seduto a un tavolo con essi e il più umano e cortese di tutti, il meno boia, gli aveva stretto la mano. Era per questo una gran data? Poi l'ingegnere Del Buono avevano assistito, anche questi erano i patti, alla riconciliazione. Metello aveva abbracciato Lindo e i soldati e gli agenti avevano tolto l'assedio. Crispi faceva il suo fagotto, trasferito com'era in un altro cantiere. E partito Del Buono, in attesa che venisse il tocco e si riprendesse il lavoro, si erano vuotate le tasche e comprati 2 fiaschi di vino. All'ombra delle impalancate ciascuno si fermava lo stomaco con pane frittata, pane uva, pane solo. I manovali già stavano rimestando la calcina. Nardini, Metello e l'ingegnere erano saliti sui ponti a sperimentare se le 6 settimane d'abbandono non avessero portato dei guasti. C'erano delle passerelle da cambiare, qualche parapetto su cui ribattere i chiodi. Nulla di serio. cose da potersi aggiustare durante il lavoro. È una vittoria. Ci possiamo contentare. Meglio che nulla, si dicevano seduti sotto le impalancate passandosi il fiasco del vino. Avevano resistito 46 giorni contro la fame e contro le tentazioni. Erano ridotti pelle e ossa, carichi di debiti e di sospesi. La storia, essi, la vivevano. E questo episodio non era stato tale da poter cambiare di colpo il loro umore. Lo sciopero del 2, il 30 giugno, i gruppi dei 21. Nomi, fatti, date che avrebbero esaltato figli e nipoti. Per loro, in definitiva, erano parole. Trattandosi di una vittoria, si sarebbe attesi un che di eccezionale, allegria, battimani, come lo scoppio del carro, un primo di maggio, la festa dell'ascensione. Al contrario, tutto si era risolto rapidamente, in un modo tanto semplice da apparire oscuro. È la vittoria di Pirro, si era portati a dire. Son nozze coi fichi secchi, è un trionfo di cartone. 6 soldi allora, come si richiedeva, avrebbero significato 2,50 lire di più al giorno, 1,60 lire per i manovali, qualcosa di ragionevole. L'avvenire, anche se non tinto di rosa, gli sarebbe apparso meno oscuro. Per questo avevano alzato il braccio 6 settimane prima al raduno di Monte Rivecchi. Ora, coi debiti che si ritrovavano, l'aumento ottenuto rappresentava sì un miglioramento, e aver vinto una battaglia data ormai per perduta, ma non migliorava in nulla la situazione. Sarebbero dovuti passare dei mesi perché ne potessero risentire un beneficio. E durante lo sciopero era trascorsa metà della stagione buona. Tra un mese, poco più, secondo il sesto Caio Baccelli e secondo l'esperienza, si sarebbero rotti i tempi. Da qui a scivolare all'autunno, a novembre, a dicembre, era questione di un sostegno. «Svelti, si riattacca!» gridò Nardini. Alte, sotto il sole che batteva a perpendicolo, si stagliavano le impalancate. Di ponte in ponte, per mezzo delle scale, si sarebbe saliti fino al quinto ripiano, dove i lavori erano rimasti interrotti. I manovali riempivano i cofani di calcina. Infilavano le scale, sorreggendosi con la mano di piolo in piolo, recando sull'omero i cofani e le pile di mattoni. La squadra di Metello, lui, Lippi e Friani, che lavoravano fianco a fianco, si avviò. Friani aveva portato le cazzuole prese nel deposito adiacente al dormitorio, e i fili a piombo, e il regolo, e la squadra. Il nipote assistente li aveva preceduti e ispezionava le pareti calcinate 1 mese e mezzo prima. Ora, correndo come una furia lungo la massicciata, apparve il piccolo Renzoni. I muratori raggiungevano i ponti spingendosi su per le scale. Il sole ricominciava a cuocere il loro viso, le braccia, la nuca. Grondavano sudore e non ancora avevano attaccato a lavorare. Non di meno, proprio adesso, si sentivano invasi da un sentimento che se non era allegria era di già buon umore. Non si dicevano più «è stata una vittoria», ma «forza, dai! Te ne rammenta ancora come si combaciano 2 mattoni?» «Metello!» gridò il piccolo Renzoni. «Eccomi qui, sono arrivato! Diglielo tu a Nardini, che non mi metta la multa, e tocca 3 minuti!» «Piuttosto che chiamare il babbo, fai il tuo dovere!» lo interruppe Nardini, e gli dette uno scapaccione. Renzoni prese la pala e riempì il suo cofano di calcina. «È venuta?» gli chiese Parigi, che lì a un passo compiva il suo stesso lavoro. La vedessi, ci aveva un vestito rosa a quadratini, e in mezzo al filoncino c'era una bracciola impanata. Finirà che la sposi, se non cambio idea sotto le armi di sicuro. «Onino, ci fai aspettare un po' troppo con codesta calcina!» gli gridò Lippi sporgendosi dalle impalancate mentre ancora saliva. Un quarto d'ora dopo, era come se il lavoro non si fosse mai lasciato. Steso il primo strato di calcina sulle pietre e i mattoni, i muri venivano su di nuovo, freschi, sotto il sole. Il cantiere risuonava delle voci, dei colpi dei carpentieri che ribadivano i parapetti di legno e i pali maestri e segavano le assi, fissavano nuove giunture alle tavolate. I manovali impastavano acqua e cemento. Il canelupo si era steso all'ombra e dormiva. Olindo andava avanti e indietro con la sua carriola di pietrisco, e lì vicino, Parigi, tirava la fune che scorreva sulla carrucola e trasportava sui ponti gli arnesi, i cofani e i mattoni, snellendo la fatica ai manovali e accelerando i tempi ai muratori. Dalla cima della fabbrica in costruzione, il riflesso del sole costringeva a riparare gli occhi sotto la visiera dei berretti. Si vedevano gli alberi della fortezza, al di là dei quali svettava la lanterna di Santa Maria del Fiore. e dall'opposto orizzonte le case più basse lasciavano scoperta tutta la campagna e le ciminiere attorno ai freddi. Si seguiva il corso del Mugnone e i binari della ferrovia. Un treno sbucò fischiando dal tunnel, col suo pennacchio di fumo. Il decano disse: «Beato chi può viaggiare! Chi viaggia non ha certe preoccupazioni. Parli come un bambino», disse Friani. «È che non ho mai preso il treno in vita mia». Metello disse: «Se parli, t'aumenti il caldo e la fatica, nonno. Te ne sei dimenticato?» «Ma se l'ho insegnato io a te». «E allora?» «Pensa al povera Minta e al tedesco. Gliel'avranno trovata subito la pallottola in sala operatoria». «Ti vuoi chetare? Ecco l'ingegnere», disse Friani. Il nipote gli andò incontro e gli porse la mano per aiutarla a salire gli ultimi gradini. Dietro Badolati veniva il piccolo Renzone, già al suo terzo viaggio, col cofano sulle spalle e la fronte madida di sudore. L'ingegnere proseguì sul ponte. Si era fermata accanto a Metello e insieme a lui e al nipote considerava sui lucidi la ripresa dei lavori. «Lippi, oh Lippi, datemi una mano!» disse Renzoni. Piccolo, come lo chiamavano, e piccolo di statura, una notte a metà perduta e su e giù di corsa tutta la mattina, la stanchezza gli tagliava ora le gambe. Si appoggiò al palo maestro che aveva alle spalle e vi si sostenne aderendovi col cofano pieno di calcina. «Vieni!» disse Lippi. E monotono nella sua ironia: «Questa sarebbe la nuova generazione!» esclamò. «Che ci vai a fare di leva? Appena arrivi ti passano all'infermeria. Magari mi rimandassero subito a casa. Mi sposerei prima». «Bella prospettiva!» disse il decano. «Poggimi il cofano, su!» Renzoni piccolo emergeva sul ponte di tutto il busto. Fidandosi al terzo e al quarto piolo della scala, le spalle appoggiate al cofano e questo a contrasto col palo maestro che sovrastava il ponte dove si sarebbe coperta la costruzione. «Sta fermo, te lo tolgo io!» aggiunse Lippi. Si chinò, ma i reni non lo assistettero. Trascinato dal peso del cofano che aveva agguantato con le due mani, cadde in ginocchio e in avanti. Tentò di riprendersi aggrappandosi a Renzoni, che a sua volta si puntellò al palo e gli porse la mano. Ma il palo cedette. Una delle giunture, non ancora ribattuta, si aperse. Il palo oscillò e il piccolo Renzoni cadde all'indietro, nel vuoto. Il decano distinto cercò di venirgli in aiuto, lo sferrò appena e, portato dallo slancio, precipitò con lui. Un urlo solo e si schiacciarono sullo sterrato. Il decano spirò all'istante e il piccolo Renzoni, senza aver ripreso conoscenza, mentre lo trasportavano all'ospedale, laddove anche il tedesco era uscito inanimato per sempre dalla sala operatoria. Estratta la pallottola, come d'incanto gli si era fermato il cuore. Chiamano incidenti sul lavoro, ma sono incidenti sul capitale. Meno soldi, meno diritti, è la danza che sa da danzare. Il ballo del lavoro col capitale, il ballo del lavoro col capitale. Morte sui luoghi del capitale, cantiere esterno, officina, ponteggi, torni o sottoterra. Il ballo del lavoro è una guerra, morti feriti ogni giorno. Ballo italiano e globale, ballo italiano e globale, ballo italiano e globale, ballo italiano e globale. Quel mattino Cesare e la Bellidina erano partiti senza salutare. Ersilia aveva aperto per caso l'uscio sulle scale e li aveva visti scendere, lei avanti col vestito lilla e l'ombrellino, lui dietro, carico di valigie. «Buon viaggio, buone sabbiature!» «Grazie!» rispose Cesare. E aveva aggiunto, ma senza ironia, non ne era capace. Evidentemente si era impappinato. «Anche a lei, Ersilia, anche a suo marito!» «Chissà cosa t'ha data a bere!» ella pensò. «Pover'uomo!» Ida, la Bellidina, lasciandosi cadere sugli strapuntini della carrozza di piazza, «Uffa!» sembrò esclamare, mentre sorrideva alla Celeste che le batteva le mani dal suo davanzale. «Intanto son bastati due ceffoni per spedirti da Pancaldi», pensò Ersilia. «Quando sarai di ritorno, vedremo». Nel pomeriggio, consegnato il lavoro alla vedova Ruini, ella aveva potuto dare un acconto al fornaio e preparare la cena. Era poi andata di là d'Arno dalla madre e si era ripreso il bambino. Aveva suonato il campanello di Annita. L'amica non c'era. C'era quella parente che gli badava i ragazzi. «Non lo sa che a quest'ora Annita si trova in manifattura?» Dunque, se perfino le sigaraie lavoravano, lo sciopero generale era fallito. Nessuno in San Frediano sapeva nulla di preciso. Qua e là, sui muri, c'erano i manifesti di cui le aveva parlato Metello. Sembravano vecchi di mesi. Il traffico nel centro della città e nei rioni era normale. Tanta calma quanto faceva caldo e si sudava. In piazza Santa Croce la gola, più che la sete, la costrinse a fermarsi dall'acquaiolo. Ora le restavano 3 centesimi, il seme. Metello era già in casa. seduto al tavolo di cucina, stanco, abbattuto. Se lei fosse stata sola, non si sarebbe alzato. Ma Libero, che essa teneva in collo e gli porgeva le manine, lo decise. Aveva uno sguardo cupo, che metteva timore, e che nemmeno la presenza del bambino riuscì a schiarire. I suoi occhi non erano arrossati, tuttavia sembrava avesse pianto fino a un momento prima. «Sei tornato per tempo», ella disse. «Ti aspettava l'ora di cena. Ho fatto il minestrone prima di uscire. So che ti piace riposato». E c'era la soprassata, il vino, 5 o 6 ciliegie. Nella tasca del grembiule ella nascondeva mezzo toscano, una sorpresa su cui Metello aveva finito per contare. «Dopo», egli disse. «Ora mi fermo pochi minuti, son voluto passare siccome temevo tu stessi in pensiero». Le raccontò in modo concitato quanto era accaduto, dal suo arrivo all'appuntamento dei 21, alle ultime parole che il piccolo Renzoni aveva scambiato con Parigi e che costui gli aveva riferito. «È stato un incidente», concluse. «Non è il primo e non sarà l'ultimo. Lippi e Renzoni nipote son morti come morì tuo padre. Son cose che capitano a chi lavora per aria. Lo sciopero non c'entra. Ma col tedesco... Il tedesco l'ha ammazzato la gente col tubino, sembra sia un delegato, oppure il maresciallo. Quei soldati dicono che è stato il delegato a sparare. In questura danno la colpa al sottufficiale. Ma son tutti d'accordo nel sostenere che si sia stati noi a provocarli, e che i sassi son partiti avanti del primo colpo di pistola, e che noi gli s'andavi incontro per assalirli di sorpresa, io e il tedesco in testa, capirai, così a mani nude». Dopo la caduta di Lippi e di Renzoni si è sospeso il lavoro. Non era nemmeno mezz'ora che avevamo ricominciato. Siamo andati tutti davanti all'ospedale. Costì ci hanno fermato. Noi, i caporioni, come ci chiamano, ci hanno portati in questura. Credevo non ci volessero rilasciare. Ho ancora brividi addosso. Ella si trovò seduta, le mani sul ventre, senza sapere cosa dire. Disse che si debba sempre pagare tutto così caro. Egli le porse il bambino e scontrosamente le dette un bacio sulla fronte. «Tieni Libero, debbo tornare alla camera del lavoro, si distribuiscono i soldi della sottoscrizione». «Per la verità», aggiunse, «dopo quello che è accaduto, l'idea di Del Buono sarebbe stata di farne 3 parti sole, per le 3 famiglie dei morti, ma la maggioranza non ha aderito. Non se la sentono di tornare a casa senza una lira anche stasera. Gli vuoi dire egoisti? Non tutti si trovano nelle nostre condizioni». «Quali?» ella disse. «Ho dei centesimi in tasca, e i debiti che sai, senza pensare che domani sera mi scade la rata della strozzina». Poi disse, «Scusami, parlo, ma sto pensando a quei disgraziati. Del resto, loro sono morti, e alle famiglie non glieli ripagate di certo facendo i generosi, neppure se li si mettesse in mano 1000 lire. È per l'avvenire che vi dovreste preoccupare. Tassatevi in modo da dargli un tanto alla settimana, almeno per qualche mese. Badolati cosa ha detto? Offrirà le solite 50 o 100 lire, te ne sei scordata? E perché hai in meno boia? I padroni non hanno nessun obbligo di iscriverci alle assicurazioni. Ce ne vorranno di scioperi e di bare, prima di conquistare un diritto come questo». «Metello», ella esclamò. Lo guardava fissa e riappuntava con lo spillo le braghe del bambino. «Io ti ho sempre dato ragione, ma tu non mi devi mettere paura». Due ore dopo, egli era stato alla camera del lavoro e a visitare quei morti. Era tornato e aveva posato sul tavolo le 13 lire che gli erano toccate di sua parte. Il tavolo era apparecchiato a nuovo. C'era il lume a petrolio acceso e ci volava attorno una farfalla. Libero dormiva nel suo angolo di letto. Dalla strada proveniva la musica e la voce del concertino. Ersilia disse, «E loro? Le donne dei morti, per dire. Le hai viste? Ci ha parlato? C'è la vecchia del Lippi fa compassione. Se lo carezza e lo chiama Ginino come un figliolo. Non piange nemmeno. Lo chiama e gli dà via la testa. La mamma del Renzoni, lei urla. Non ci si resiste. Renzoni, il nonno, è fermo su una sedia. Sembra calato di peso dall'impruneta su quella sedia. È mezzo paralizzato. Non parla. Farfuglia. Dice, tutti i sabati mi portava le spuntature. Appena riscosse il salario, era la prima cosa a cui pensava. Noi si sapeva che Renzoni Piccolo era fidanzato, ma con chi? La conoscevamo di vista. Qualcuno è andato su e giù per il Lungarno, non l'ha incontrata. Ma quello che fa più pena è il tedesco, solo come un cane. Tutti i fiori che c'erano si sono messi vicino a lui. La moglie, saputa la notizia, forse gliel'hanno detta senza cautela, è cascata in terra e poco dopo, siccome era incinta, ha abortito. Ora è alla maternità. Domani tu e Annita ci dovresti andare. La bambina l'hanno presa dei vicini, parla più tedesco che italiano. Suo padre glielo faranno vedere prima di chiuderlo nella bara. Lei e la mamma sono rimaste sole, non hanno parenti, non hanno nessuno. Così dicendo mangiava voracemente, senza accorgersene pareva. Era un uomo umiliato e carico di dolore, di ira, che cercava di fare ordine nei propri pensieri. Presto ebbe finito e si affacciò alla finestra. Ersilia abbassò la fiammella del lume e lo raggiunse. Gli porse il mezzo toscano e la scatola di zolfini. Rimasero in silenzio, nell'ombra, a guardare la vita che si rappresentava sulla strada. Il marito della Celeste giocava a carte col bacalaro. C'erano le donne sulle porte delle case a illudersi di godere un po' di refrigerio e il concertino fuori l'osteria, i ragazzi che giocavano a rincorrersi. Arrivò l'ultima diligenza del contado. «E Olindo?» gli chiese Ersilia. «Ha avuto la sua parte di soldi ed è sparito. A quest'ora sarà di già a Rincine. Non gli vuoi perdonare?» Trascorsero dei minuti. Ella aveva passato il proprio braccio attorno al suo, li si stringeva al fianco. Infine, come concludendo un soliloquio, egli disse... «Oh, non avrà certamente cambiato parere. Son sicuro che penserà di dover essere lui a perdonare me e quelli che l'hanno cazzottato. Si sente dalla parte della ragione. E forse chissà che non sia lui nel vero. Ci viene sempre a costare tutto così caro», disse. «Troppo. Dianzi, del buono, ha parlato, e a me ballavano in testa quelle tue parole. Mi son dovuto trattenere dal non gridarla ad alta voce». E fu ancora lei, Ersilia, a venirgli incontro, col proprio equilibrio, la propria amorosa presenza. «Sta a vedere che ora ne saprò più io di del buono!» esclamò. Poi disse, «E tu saresti il peggior nemico di te stesso se proprio in un momento simile incominciassi a dubitare. Non si tratta di dubitare, ma di caricarsi di una responsabilità o di farne a meno. Io non mi sono mai ficcato di mia iniziativa in prima linea, ma quando mi ci son trovato, o mi ci hanno spinto le circostanze... Come potevo tirarmi indietro? Avrebbero avuto ragione a sputarmi in faccia, non ti pare? E perciò, ella disse, non ti tormentare. Basterà che tu e tutti vi ricordiate più spesso di avere qualcuno a casa e di non farvi pigliare dalla disperazione. Egli la strinse a sé per le spalle. A momenti, se uno non si sentisse l'animo tranquillo, verrebbe da piangere, cosa credi? Non è come poté succedere 4 anni fa. Allora non c'era lavoro, mancava il pane. Ora lavoro c'è. Il pane ci si guadagna, perché ce lo debbano lo stesso far mancare? Il tedesco è morto per questo. C'aveva la moglie gravida e quella bambina, fin dal primo giorno ci aveva espresso il suo pensiero. E Lippi e Renzoni, perché sono morti? Il palo, sì, era allentato, ma li poteva reggere se si agguantavano. S'andrebbe giù tutti i giorni, altrimenti, tra pericoli di questo genere, ci si sguazza. Dovevano essere stanchi, come tutti. Al vecchio gli è preso di sicuro un capogiro e si è trascinato dietro il ragazzo. Loro e il tedesco, più o meno, sono morti per la medesima ragione. Ci vanno sempre di mezzo gli innocenti, continuò. Lippi, lui cos'era questa vita, lo sapeva. Quei figli grandi e sposati come aveva, non aveva più doveri. Ma il tedesco, che lascia al mondo 2 creature, la bambina affidata alla mamma, che si sa esprimere anche meno di lei, e Renzoni piccolo, tu l'hai conosciuto. Ti rammenti che occhi aveva? Celesti, nuovi, chi se li potrà scordare? Ed improvviso... Erano gli occhi di Betto, si disse, uguali. Ma non confidò ad Ersilia questa sua impressione che gli aveva aperto come una voragine dentro il cuore. Piano piano gli sembrò che, associando la memoria di Betto a quella del piccolo Renzoni, ancora tepido nella sua bara di legno comune, una forza inspiegabile tornasse a possederlo. Aveva avuto paura, e ora ne scampava. «Non ti so spiegare», disse. Era a sé medesimo che si rivolgeva, parlando a Ersilia. Alessandro Benvenuti ha letto Metello di Vasco Pratolini, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.